così viene Natale. Santa Madonna. E la gente va in chiesa a fare la spesa. E così viene Natale. Sempre d'inverno. Con il gelo che ti gela, con quel nodo nella gola. E mi serve qualcosa, non so dire che cosa è. E così viene Natale, anche stavolta, tutto il mondo fa festa e a me fa male la testa. Sa perché sono qui con me tutto solo. Buon Natale a tutti voi, lo scrivo con la non penso più a niente, nemmeno.